thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. Would just peel out the white wear. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. There must have paid her a nice price. She's putting on her stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword just out the watchword. Ciao a tutte, ciao a tutti. Questa è l'ultima trasmissione dei nomi delle cose prima della pausa estiva. Diciamo che ci risentiamo più o meno a metà settembre, però vogliamo lasciarvi con una serie di questioni e di domande politiche che per noi sono molto importanti, sono fondanti della lotta femminista, quindi abbiamo deciso di porle in questa puntata perché siano uno spunto di riflessione di cui poi poter tirare le fila a settembre e vertono sui legami tra repressione sociale e violenza di genere, che sono tra queste due cose per noi c'è un legame profondo, e appunto vorremmo tirarne le fila a settembre perché né la repressione sociale né la violenza di genere conoscono pause. Cominciamo con una serie di notizie che riguardano la repressione sociale. Allora, ieri notte, verso mezzanotte e qualcosa, dei compagni nel quartiere di Torrevecchia a Roma stavano attacchinando proprio per il presidio di domani a Piazzale Clodio, domani mattina, per i processati e gli arrestati del 15 ottobre e anche per un'iniziativa che abbiamo deciso di fare nel nostro territorio con l'idea di proporre un'estate in periferia che non fosse quella a scopo di lucro che troviamo insomma nel centro di questa città vetrina. una volante fondamentalmente ha intimidito due ragazze minorenni e queste purtroppo si sono spaventate e quindi sono scappate fuori. Insomma, fondamentalmente c'è stato un parapiglia, inseguimento, eccetera, gente che tentava appunto di mediare questo atteggiamento molto arrogante delle forze dell'ordine, che vabbè, ovviamente conosciamo, e non era la prima volta né il primo episodio in cui purtroppo ci trovavamo di fronte a un atteggiamento arrogante e repressivo nei confronti del commissariato di Prima Valle, e quindi ci hanno semplicemente confermato quello che pensavamo. Hanno portato via, ovviamente trascinandoli via senza nessun motivo reale, quattro compagni che sono stati portati in commissariato e dove poi è stato ovviamente confermato l'arresto. Sono rimasti una notte in carcere e sono poi stati processati per direttissima questa mattina. Le accuse che sono state date sono di resistenza e lesione. E questa cosa è assurda perché leggendo il verbale, insomma, ovviamente le guardie fondamentalmente si sono inventate che hanno dovuto, cioè sono state malmenate da questi due che tentavano di fuggire, cioè una cosa veramente fuori dal mondo. E ovviamente hanno le firme, ci sarà un processo a luglio. Chiediamo a tutti e tutte di condividere i vari comunicati che stanno girando in questo momento. E la cosa allucinante è che ovviamente come al solito la repressione delle forze dell'ordine va di pari passo con la repressione dei media. E non so se vi sia capitato di leggere le due ansie che sono girate oggi, ma di cui la prima era molto sintetica, ma fondamentalmente, cito testualmente, il titolo riportava che hanno picchiato un agente e che c'era un tentativo di linciaggio nei confronti delle forze dell'ordine. Questa cosa ovviamente non è assolutamente vera. E quindi, cioè, nel senso, anche se fosse, comunque, però proprio non è vera, è tutto inventato. E nella seconda ansia c'è un racconto un pochino più lungo, proprio dei fatti narrati con delle riprese rispetto, leggendo il verbale ci siamo accorti che ci sono, insomma, dei parallelismi in questo racconto. Domani pomeriggio, anche se in concomitanza pure con l'iniziativa alla Sapienza alle 17 sul 15 ottobre, ci sarà un'assemblea pubblica a Valle Fiorita in via Torre Vecchia 156 per discutere con tutti e tutte di questo assurdo comportamento repressivo in questo quartiere, che invece in quest'anno è riuscito comunque a far vivere attraversando il quartiere dalle proprie lotte per la casa, lotte per il lavoro, e forse proprio per questo che alzano la tensione per reprimerci. Certo. Mi viene sempre da sorridere quando leggo fatti di questo tipo, non so, che le forze dell'ordine sono state aggredite, picchiate, oppure hanno subito dei traumi, cioè come se uno non sapesse come vanno in giro, e già basta guardarli comunque. Quindi domani mattina ci sarà il processo, il presidio a Piazzale Clodio per il processo contro i compagni e le compagne per la manifestazione del 15 ottobre. E poi il pomeriggio, come diceva prima la compagna di Roma Nord, ci sarà all'università alle 17 alla Sapienza un'assemblea. On your own now. We sulla repressione. Abbiamo scelto di parlare della repressione sociale, a parte per il fatto che sono successi questi fatti molto incresciosi, cioè senza parole, questa notte, a parte il fatto che c'è la concomitanza con il processo contro i compagni e le compagne per i fatti del 15 ottobre, per la manifestazione del 15 ottobre, ma proprio perché riteniamo che la repressione contro i manifestanti, contro tutte le espressioni di dissenso in senso lato, o di riappropriazione dei territori, qualsiasi manifestazione che tenti di dichiarare che vogliamo riappropriarci della vita, è soggetta a repressione. E questo, come femministe, non è che non ci riguarda, comunque ci riguarda in maniera marginale, o comunque fa parte di un altro discorso. No, no, è un momento fondante anche poi, come vedremo, del percorso contro la violenza di genere. In questo senso cominciamo vi ricordiamo anche un altro fatto, un comunicato che è passato proprio sulla lista femminista sommosse e che riguarda la repressione, in particolare i fogli di via che sono stati dati a Forlì. Allora, vi volevo leggere una parte della mail che ci è arrivata di aggiornamento della situazione repressiva nel Folinese, di cui parlava prima la compagna sulla mail in lista di sommosse. Nelle ultime settimane ad alcune nostre e nostre compagne e compagni è stato notificato il tristemente famigerato foglio di via dalla città di Forlì per la durata di 3 anni, ed altri sono stati recapitati avvisi orali con l'ammonizione di cambiare comportamento, mentre sono stati spediti avvisi di fine indagine per 51 persone, oltre ad una sgradevolissima visita dei carabinieri a casa di alcune di noi. Le motivazioni per giustificare i suddetti provvedimenti repressivi sono riconducibili a 2 occupazioni avvenute a Forlì, rispettivamente in novembre e febbraio, all'aver partecipato a pubblici presidi e manifestazioni, alcune non preavvisate, altre autorizzate, aver protestato per la mancanza di spazi sociali e abitativi, aver esposto striscioni, tutte iniziative pericolosissime, come no, e in conclusione professare idee anarchiche e libertarie. Questa volontà di processare le idee è evidente dal momento che nel contestare la partecipazione a una manifestazione non preavvisata in occasione dello sgombero del Maceri occupato, lo stabile comunale di via Maceri a Forlì, abbandonato dal comune per 6 anni e fatto rivivere per 1 mese e mezzo da un gruppo di volenterosi, la questura abbia emesso fogli di via che colpiscono esclusivamente gli anarchici, quando a quella manifestazione era presente molte persone di diversa appartenenza politica. È vero anche però che questa misura repressiva interessa un numero di persone sconvolgentemente alto. Il numero di fogli di via è infatti in drastico e rapido aumento. A Forlì solo nel 2012 ne sono stati messi ben 243 a fronte di 34 del 2010. Ma sempre più questi provvedimenti, oltre a colpire vari soggetti indesiderabili, poveri, senza tetto, migranti, irregolari, venditori ambulanti, questuanti, vengono adoperati per allontanare da un determinato contesto fisico chi si impegna in qualche forma di lotta nel sociale che dà fastidio. È evidente quindi che in questo caso le finalità del foglio di via sono prettamente politiche, così come politica la volontà di annichilire un movimento di protesta in città, facendo partire un'indagine contro 51 persone, 4 delle quali minorenni. per reati di occupazione, danneggiamenti, imbrattamenti, violenze, istigazioni a delinquere e altre amenità, includendo anche persone che nemmeno erano presenti fisicamente nei giorni delle iniziative prese di mira, riguardanti l'occupazione del Maceria, dell'ex bar Giardino, occupazione avvenuta a fine febbraio come azione diretta simbolica contro la delega elettorale, e il corteo antifascista promossa contro la riqualificazione del ventennio mussoliniano portata avanti dalle istituzioni forlivesi. Come se non bastasse, parallelamente a queste misure repressive giustificate solo dalla volontà di spacciare per pericoloso chi lotta per cambiare le cose, si assiste a una persecuzione ferrea di chi professa e agisce per portare avanti l'antifascismo. Quindi è chiaro che la repressione non è un problema di atti, di quello che si fa o di fatti che avvengono. Il problema della repressione è un problema di chiusura di tutti gli spazi di rivendicazione di libertà, di rivendicazione di autonomia, e anche una penalizzazione, una criminalizzazione di tutti quelli che sono ai margini, perché per esempio questo che abbiamo letto che riguarda Forlì può essere applicato a tantissime altre situazioni cittadine di svariato tipo, però riguardano sempre che cosa? Diversità, riguardano i poveri, riguardano i migranti, riguardano i rom, riguardano tutte le soggettività che sono sgradite. Quindi c'è un attacco a tutto campo, a tutti quelli che non sono normati rispetto a questa società. In questo senso noi come femministe e come donne riteniamo, al di là del giudizio su questo tipo di repressione molto forte, ci riteniamo soggetti ad altissimo rischio. Volevamo insomma fare un altro esempio rispetto ai tipi di repressione che purtroppo subiamo, prendendo spunto dall'iniziativa che ci sarà sabato 29 giugno all'Orto Insorto in via degli Angeli 140 al Quadraro, per sostenere i lavoratori della logistica. E vi volevo leggere degli stralci dal loro comunicato. I lavoratori della logistica hanno alzato la testa in molte regioni, iniziando un percorso di lotta per migliorare le loro condizioni lavorative e salariali. Ma i padroni non vogliono ridurre i propri profitti ed è scattata la repressione violenta e brutale, con sospensioni dal lavoro, fogli di via verso chi è più attivo nella lotta, intimidazioni di ogni genere, fino al licenziamento politico di 41 lavoratori in appalto alla Granarolo per aver partecipato allo sciopero. Vabbè, oltre al fatto che vi chiediamo di boicottare la Granarolo come lotta politica e non solo come appunto semplicemente vezzo, questo ci lega molto alla repressione, perché proprio nel momento in cui tu non ti conformi, non sei normato rispetto a quello che è la produzione, il sistema di vita sociale in cui viviamo, la politica, pretendi di creare, di costruire un sistema differente che non sia basato e che non sia costruito sul capitalismo, quello è il momento in cui bisogna aspettarsi la repressione. Ovviamente non ci fermeranno, ovviamente non fermeranno i lavoratori della Granarolo, della logistica e tutte coloro che ovviamente tutti i giorni tentano di costruire un immaginario differente. Nonostante questo, nonostante la nostra determinazione nel continuare i nostri percorsi politici, comunque ci sentiamo di dover denunciare la repressione che attraversa i nostri corpi, i nostri spazi liberati, perché assolutamente non si parli più in nessun caso di essere meno buono perché qualcuno fa una guardia, o purtroppo sono persone precarie anche loro, non so, forse noi saremo un po' troppo dure su questo, ma siamo contenti di esserlo, e sinceramente se uno nella vita ha scelto di fare la guardia sta dall'altra parte della barricata, e l'unica cosa è lo scontro. Mai come in questo momento comunque è importante scegliere da che parte stare, non è più un momento dei distinguo, non è un momento di terze vie, non esistono terze vie, le scelte sono assolutamente fondanti, e quanto questo sistema voglia invece un essere che sia disposto soltanto a lavorare, un cittadino e una cittadina che siano disposte soltanto a lavorare, a consumare, a essere normate, a essere ossequiosi alla legalità, alla norma, ve lo dice per esempio una notizia che abbiamo scovato, che ci ha lasciate piuttosto sconcertate. Quello che sto per leggere è un articolo da roma.repubblica.it dal titolo "Sesso incerto dei bambini, al San Camillo boom di interventi, più del 50% in 5 anni. Un neonato su 5.000 è affetto da questo disturbo. L'operazione è... Mi ridici il titolo che... Sesso incerto dei bambini. Va bene. Al San Camillo boom di interventi. Più del 50% in 5 anni. Un neonato su 5.000 è affetto da questo disturbo. L'operazione è risolutiva, ma deve essere effettuata prima del compimento dei 6 anni. Vengono chiamati i bambini dal sesso incerto e sono un neonato su 4-5.000. In 5 anni sorprende il numero di operazioni che li ha visti i protagonisti. 350 interventi chirurgici solo nell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma. I bambini dal sesso incerto non hanno un organo genitale sviluppato. A stabilire il loro sesso sono una serie di indagini, prima cromosomiche e poi ormonali. È un'operazione risolutiva che non può avvenire dopo il superamento del 6° anno di età. Questi piccoli, afferma il direttore generale dell'azienda ospedaliera Aldo Morrone, sono affetti da disturbi della differenziazione sessuale che si presentano sin dall'età neonatale, con attribuzione incerta del sesso e difetti dello sviluppo sessuale. Gli interventi per definire il sesso di questi bambini sono aumentati del 50% rispetto agli scorsi anni, merito anche della crescente consapevolezza dei genitori sull'importanza di queste operazioni per i più piccoli. Allora, qui c'è veramente una montagna di commenti da fare, perché sono veramente 3.000 piani di schifo che si intersecano. Vabbè, innanzitutto un piccolo appunto lo farei proprio sulla terminologia utilizzata. Non è vero assolutamente che è un sesso incerto, semplicemente è qualcosa che non ricade nel binarismo sessuale che questa società ha per dogma. Non è vero che c'ha, non è che asessuati e magicamente con un colpo di bisturi hanno un genitale preciso piuttosto che un altro. Semplicemente hanno dei genitali che non sono conformi a quella che è la norma. Innanzitutto, tra le altre cose, qua viene scritto l'operazione è risolutiva ma deve essere effettuata prima del compimento dei 6 anni. Innanzitutto queste operazioni non sono assolutamente risolutive, anzi praticamente nel 99,9% crea una montagna di traumi in queste persone che vengono operate da piccolissime senza il loro consenso. Ma creano traumi non solo dal punto di vista psicologico, perché non gli viene neanche detto, cioè né prima né dopo, ma soprattutto anche, cioè, creano anche problemi a livello proprio di funzionalità. Cioè molte di queste persone non riescono a provare più un cacchio di orgasmo in tutta la vita loro, perché i genitori e i medici sono delle teste di cazzo eterosessiste. Poi aspetta un secondo, mi viene in mente una cosa che del film Louise Michel, no? Quando alla fine nasce il bambino che dice: ma è maschio o femmina? Ma dice: lo deciderà lo Stato. In questo caso lo è davvero. Cioè qui si parla della crescente consapevolezza dei genitori. Nella realtà non si tratta affatto di consapevolezza dei genitori, perché i medici di fatto plagiano i genitori a pensare in un certo modo e a pensare alla vita del figlio o della figlia come una vita estremamente terribile se non fa quell'intervento. In realtà nella pratica succede il contrario. Quelle persone cresceranno praticamente malissimo per colpa di questi interventi e queste cioè soprusi imposti. Brevissimo appunto, qui vengono chiamati disturbi del differenziamento sessuale. Il termine giusto è intersessualità, e queste sono persone intersex e hanno bisogno dei porco dio di diritti. Quindi questo è un altro fortissimo tentativo di far rientrare tutti in una normatività decisa a monte, a seconda delle esigenze chiaramente di un contesto socio-economico, perché noi ricordiamoci sempre che tutte le configurazioni culturali, sociali sono nient'altro che la conseguenza di un modello economico di base che è quello dominante. Infatti ci viene, a proposito proprio di repressione, vogliamo leggere una notizia completamente diversa che però riteniamo sia altrettanto importante. Perché? Perché quando si fa l'analisi di alcuni pezzi, così chiamiamoli così, del sociale, di alcune situazioni, in effetti queste analisi devono essere riportate a unità, perché soltanto riportandole a unità si riesce a capire il meccanismo di funzionamento di questa società e come vuole comprimere e riportare a funzionalità in tutti gli ambiti della vita. Per esempio è uscita da pochissimo, quindi penso mi pare lunedì, è stata messa in atto la legge per cui le banche e tutti gli operatori finanziari devono inviare all'amministrazione, quindi all'Agenzia delle Entrate, tutti i dati sui movimenti bancari e su ciascun correntista. È una disposizione del decreto legge 201 del 2011, che poi è diventata diciamo è stata perfezionata il 25 marzo del 2013, per cui bisogna cioè che vengano comunicate tutta una serie di informazioni che riguardano tutta la diciamo tutto il circuito delle spese, delle entrate, delle uscite di ciascun contribuente, in modo che così il fisco possa risalire con scarso margine di errore al tenore di vita, di scontrare se quanto è dichiarato è compatibile o meno con le spese o con gli incassi. Allora uno può dire: ah, a me non importa, perché questo è un problema di ricchi. No, non è un problema di ricchi, è un problema di controllo di tutte le nostre vite, perché verrà fuori qualsiasi cosa, possono chiamare chiunque perché, non lo so, ha lavorato in nero. Pensiamo soltanto alle prostitute. Le prostitute hanno delle entrate che non sono dichiarabili e che non vengono da nessun lavoro ufficiale. Come saranno trattate? Saranno chiamate a difendersi, a dire da dove vengono i loro introiti? Oppure dovranno essere normalizzate e, come ha proposto una ministra PD, dovranno avere il patentino? Cioè il patentino di puttana, fatemi capire. Allora, siamo ancora qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è la trasmissione I Nomi delle Cose della Coordinamento Femminista e Lesbica. Vediamo un attimino i nostri indirizzi. L'indirizzo di posta è coordinamenta@autistiche.org se ci volete scrivere, e il nostro blog è coordinamenta.noblogs.org, dove potete trovare i materiali, le trasmissioni, eccetera eccetera. Allora, dopo la carrellata che abbiamo fatto sulle repressioni varie che ci sono calate addosso, di svariati tipi, passiamo al nostro specifico, perché vorremmo un attimo parlare con voi dei rapporti che ci sono fra quelle oppressioni di cui abbiamo parlato prima e la nostra oppressione, l'oppressione, la violenza di genere, la violenza sulle donne. Allora, vi volevo leggere, come ben sapete, la Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne è legge. Il Senato, dopo la Camera, dà il via all'unanimità alla Convenzione di Istanbul in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, e le sue norme diventano legge in Italia. Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza. Più precisamente, la finalità è quella di prevenire e contrastare la violenza intrafamiliare e altre specifiche forme di violenza contro le donne, di proteggere, di fornire sostegno alle vittime di questa violenza, nonché di perseguire gli autori. L'aspetto più innovativo del testo è rappresentato dal fatto che la Convenzione riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Quindi, mi raccomando, attenzione, violenza sulle donne come violazione di diritti umani e forma di discriminazione. È prevista anche la protezione e il supporto ai bambini testimoni di violenza domestica, e viene chiesta la penalizzazione dei matrimoni forzati, delle mutilazioni genitali femminili e dell'aborto e della sterilizzazione forzata. Si riconosce infine il ruolo fondamentale svolto dalla società civile e dall'associazionismo in questo settore. La Convenzione è stata firmata dall'Italia nel settembre scorso a Strasburgo. L'Italia, con il via libera di oggi al Senato, oggi si riferisce al 19 giugno, è il quinto paese ad aver ratificato la Convenzione, che però per entrare in vigore ha bisogno la ratifica di 10 paesi, di cui almeno 8 membri del Consiglio d'Europa. Questo tanto per chiarirvi un attimo, le ratificazioni in realtà si devono fare a scadenza, cioè in ogni convenzione si decide, che ne so, che ogni tot anni, magari 5, insomma, si determina ogni volta la quantità di tempo e poi va ratificata. Quindi, oltre al fatto che ancora non ci sono 10 paesi membri della Comunità Europea ad aver firmato, comunque questo non significa che poi la legge in realtà sia veramente poi applicata. Anche se noi comunque abbiamo le nostre critiche anche sulla convenzione. Sì, al di là della convenzione, no, perché l'Italia, come tanti altri paesi, firma tutte le più belle convenzioni, firma tutti i più bei trattati, e lo facevano anche sotto il fascismo, firmavano tutti i più bei trattati per la tutela delle minoranze e per la difesa dei cittadini diversi, eccetera, salvo poi sappiamo come è andata a finire. Però hanno ratificato, appunto hanno approvato, è diventata legge la Convenzione di Istanbul. E che cosa succederà qui da noi? Cioè, che cosa succede quando questo tipo di sistema prende atto di una situazione e decide di usarla? Per esempio, c'è stato questo lunedì scorso, 2 giorni fa, un convegno sulla violenza di genere, testuale, vi leggo proprio dalla locandina, alla Sapienza, all'Università di Roma, per una cultura condivisa sull'onore e il rispetto delle donne, ed è appunto di lunedì 24 giugno. Chi partecipa, chi l'ha indetta questo convegno? Chi partecipa a questo convegno? Allora, ci sono stati assolutamente tutti, perché c'è il rettore della Sapienza, il ministro Anna Maria Cancellieri, il ministro della Giustizia, Beatrice Lorenzini, il ministro della Salute, Nunzia De Girolamo, ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali, eccetera eccetera, C'è il Consiglio Superiore della Magistratura, c'è il Ministero dell'Istruzione, c'è la Corte dei Conti, c'è la sostituta Procuratore della Repubblica Tribunale di Roma, c'è un magistrato del Tribunale di Roma, c'è il Generale di Brigata per le investigazioni scientifiche, c'è il Prefetto, c'è il Questore. C'è Giulia Bongiorno della Fondazione Doppia Difesa, c'è il Presidente dell'Ordine dei Medici, ci sono psichiatri, neurologi, psicologi, delegate per le pari opportunità e per le politiche di genere, istituti per la ricerca, direttori generali del Policlinico. Allora, questo quadro vi dà l'idea di chi intende occuparsi della violenza di genere, dato che si sono anche appropriati del termine, della violenza di genere, proprio come, come dice la Convenzione di Istanbul. Allora, chiaramente che cosa attueranno? Attueranno tutta una serie di politiche che prima di tutto sono imperniate sulle cause, non sulle cause, sugli effetti, non sulle cause. Quindi saranno tutta una serie di politiche securitarie, e non gli sembrerà vero di mettere in atto una serie di politiche securitarie che, come hanno fatto in tanti altri ambiti, gli serviranno, dato che sono un fiore all'occhiello, da apripista per poter far passare tutta una serie di ulteriori leggi repressive. Quindi noi come donne dovremmo stare sempre molto attente a gridare alla vittoria della democrazia, alla finalmente sono state applicate. Certo, rendere pubblico che la violenza sulle donne, rendere manifesta, tirarla fuori dal silenzio che la violenza sulle donne esiste e che è una violazione dei diritti umani e compagnia bella, è soltanto positivo. Però noi sappiamo che questo sistema neoliberista, ha due caratteristiche che lo rendono particolarmente, due caratteristiche che sono sue, e sono: una, la strumentalizzazione dei diritti delle donne, della violenza sulle donne, della diversità, per poter cavalcare appunto leggi securitarie e per poter far passare uno spirito e un senso comune di delega e di sudditanza rispetto a tutta una serie di strutture, cioè per l'infantilizzazione del soggetto donna. E poi questo stesso sistema strumentalizzante viene applicato anche nei riguardi dei popoli del terzo mondo, tant'è vero che noi andiamo come paesi occidentali nei popoli del terzo mondo a portare le guerre neocoloniali, invece diciamo che sono guerre umanitarie, e che portiamo la tutela dei diritti umani, la tutela delle donne, e portiamo la democrazia. mantenendo il discorso sulla violenza di genere, passiamo alla violenza domestica. Noi abbiamo sempre ricordato che insomma la violenza avviene molto spesso all'interno dell'istituzione familiare, e si sta lavorando a una legge per intervenire anche senza denuncia, e voi direte: bah, che cosa sarà? E in realtà, appunto, con nuove misure sulla violenza domestica, che in realtà è all'interno di un decreto dedicato in realtà all'affollamento nelle carceri, quindi non si intende ovviamente intervenire sulla violenza di genere, ma si sta semplicemente tentando di arrestare meno gente perché le carceri sono troppo affollate. Nel capo quarto di questo decreto c'è la prevenzione e contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale. Già solo il titolo insomma vi fa comprendere di che cosa stiamo parlando. E all'articolo 14 troviamo misure e prevenzione per le condotte di violenza domestica. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato, di cui l'articolo 582, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere a verificare, a arrestare, a fare quello che insomma ritiene necessario per considerare questa cosa. Ovviamente si intendono, cioè si dà anche pure la definizione di violenza domestica: tutti gli atti non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare. Quindi vabbè, a parte l'infantilizzazione comunque della donna, perché appunto, cioè, non serve più nemmeno la querela, cioè uno non si prende nemmeno la responsabilità. È una denuncia d'ufficio. Sì. Di fatto la donna, cioè basta che qualcuno denunci che viene sottoposta a vessazioni di natura, di qualsiasi natura, di genere, e può essere bypassata e la sua volontà non conta più. No, non conta la sua volontà, non conta nemmeno il fatto che sia la donna a doversi liberare, che insomma, almeno secondo noi, è il principio fondamentale per combattere la violenza di genere, cioè un'autodifesa che sia un attacco, nel senso consapevolezza, sì, presa di coscienza, autodifesa. Autodeterminarsi da sole, perché in questa società molto spesso è complicato, e ovviamente con tutte queste leggi, questi convegni, è un po' complicato, perché in realtà lo Stato e le forze dell'ordine e tutto il sistema sociale ti dice che ci pensa lui a te, tu non ti devi preoccupare di nulla. E un altro articolo interessante era quello, appunto, sempre appunto per perché ci vogliono infantilizzare, ci vogliono rendere delle donnine che non sanno prendere le loro decisioni. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento relativo al reato di lesioni personali devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante, cioè quindi ti istigano la delazione, non ti prendi cioè fai una denuncia e non ti devi nemmeno prendere la responsabilità di denunciare. Cioè il vicino di casa, cioè detta così, diciamo che questi cosa fanno? Ti fanno sempre sentire un verme quando una si espone e dice che queste cose sono contro di noi. Perché? Perché uno dice: ma come, si preoccupano di tutelare le violenze, tutelare le donne dalle violenze, si preoccupano, faranno questa task force che monitorerà le violenze domestiche, le violenze sulle donne, eccetera, eccetera. E in parole poverissime, per esempio, questa sulla denuncia d'ufficio, che cosa significa? Che il vicino di casa può fare la denuncia, denunciare che a casa tua avvengono delle violenze di genere, questo vicino non si prende neanche la responsabilità della denuncia perché resta anonimo, e procedimento diventa d'ufficio. Quindi la donna viene infantilizzata, le viene tolta qualsiasi possibilità di... poi oltretutto le viene tolta la possibilità di ritirare la denuncia in caso di denuncia poi della donna, non si le viene tolta la possibilità di ritirarla, di fare marcia indietro. Quindi è proprio un bypassare la volontà personale in funzione di una tutela, secondo loro. Loro fanno passare queste cose sempre attraverso nobili motivi e nobili intenti, no? No, ma poi un altro punto, sempre ovviamente col Ministero dell'Interno, nel Dipartimento di Pubblica Sicurezza elaboreranno un'analisi criminologica sulla violenza di genere, che normalmente questi rapporti vengono stilati annualmente dai vari dipartimenti dei ministeri, ovviamente con i dati, beh, sono falsati anche i dati normalmente, però almeno c'è una parvenza di stilare i dati, elaborarli a seconda dei dati annuali che, con cui abbiamo a che fare. In questo caso invece si dà libero sfogo ovviamente a qualsiasi tipo di rapporto politico, in questo caso perché non è altro che un rapporto politico, sull'analisi criminologica. Quindi ovviamente ricadiamo nella specializzazione della specializzazione della specializzazione, in cui le donne sono ovviamente le cavie, come spesso accade, e loro non devono assolutamente dimostrare che i dati prodotti quantomeno si riferiscano, che ne so, a un numero di violenze accadute in ambito domestico, nemmeno quello. Cioè loro, un po' come l'ombroso, prenderanno forse una fantomatica testa, tasteranno la forma e ci diranno che cosa succederà. In this love, no man can change. Follow my heart, leave my mind to wonder. Is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bill for my lover. Una chicca di queste nuove norme che sono andate in discussione martedì al Consiglio dei Ministri riguarda per esempio i migranti e le migranti, che poi di fatto sono le migranti, perché chi è oggetto di violenza domestica è sempre soggetto femminile di solito, no? Allora, la norma dice che il questore può rilasciare il permesso di soggiorno alle vittime di violenza domestica per consentire di sottrarsi alle violenze. Quindi detto così, dice qua, va bene, allora una donna che è in pratica soggetta a soprusi, a violenze, domestiche da parte del compagno, del marito, del padre, delle cose, in una situazione di irregolarità sul territorio italiano, può ottenere il permesso di soggiorno. Salvo poi dire un pochino più in giù, dice che però il permesso di soggiorno sarà revocato quando verranno meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Cioè, fatemi capire che significa questo: che finché la donna viene picchiata e brutalizzata, allora le viene dato il permesso di soggiorno. Nel momento in cui riesce a scappare dal marito, a tutelarsi, a venire fuori dalla situazione di violenza, ritorna nella situazione di irregolarità. Che noi siamo buone solamente quando siamo vittime, se non siamo vittime non siamo conformi a questo sistema, e quindi l'unico modo per rientrarci è quello di renderci il più vittime possibile di questo sistema. But how? In conclusione di questo percorso sulla depressione, allora ho sbagliato qualcosa di tecnico. Allora, in conclusione di questo percorso, di questa carrellata che abbiamo fatto sulla depressione in vari ambiti, volevamo chiudere questa trasmissione e chiudere il nostro anno politico con una serie di domande che vi lasciamo, che sono domande aperte e che su cui vorremmo che ci fosse un po' una riflessione da riprendere a settembre. Per esempio, una è questa: se una società è imperniata sul possesso, sulla gerarchia, sul comando sul lavoro, concetti che si espandono e caratterizzano tutta la società, tutto il sociale, può mai la violenza sulle donne essere affrontata come un problema culturale? Non è forse un problema strutturale? L'altra domanda: se la violenza di genere è perpetrata all'interno di sistemi gerarchizzanti come la famiglia, la coppia, sono un piccolo specchio del sistema sociale, può mai essere risolto senza mettere in discussione il sistema sociale stesso? Poi, per esempio, se una società ripropone fortemente i ruoli in tutto sociale, come fa in particolare il capitalismo nella sua attuale configurazione neoliberista, quindi se una società ripropone fortemente i ruoli, come può sciogliere il nodo delle questioni di genere, e solo il nodo delle questioni di genere, che sono in cui i ruoli sono fondanti? Se una società se una società è impostata sul controllo e la repressione come elemento fondante dell'ordine sociale, quindi sulla mortificazione e persecuzione di ogni spazio di libertà, può permettere un percorso di liberazione delle donne questa società? E se le istituzioni sono parte fondante di questo percorso di controllo e annullamento di ogni tipo di libertà, come possono essere interlocutrici a qualsiasi tipo, a qualsiasi titolo, contro la violenza di genere? Le associazioni o le strutture femminili legate ovviamente alle istituzioni che a vario titolo fanno in realtà gli interessi dei partiti, della finanza o dell'economia, come possono essere prese in considerazione in un percorso di liberazione? È il perpetuare l'equivoco che queste strutture possano essere importanti nel percorso di liberazione delle donne. Non è questo stesso complicità? Someone's knocking on my kitchen door. Leave the wood outside. What all the girls here are freezing cold. Leave me with your body, your eyes. winter. I don't need much to keep me warm. And don't stop now. What you doing? What you doing, my ugly one? E ultima, ma non ultima, e non denunciare le strumentalizzazioni che questo sistema fa attraverso le donne di potere, della violenza sulle donne e delle violenze razziste, contrabbandando le guerre neocoloniali come umanitarie nel fronte esterno, e l'attenzione sui diritti sul fronte interno non è perpetuare la violenza sulle donne? Got a cloud sleeping on my tongue. He goes and it goes and kiss the violets as they're waking up. Leave me with your bony eyes and leave me the way I was before. Allora, volevamo salutarvi, ma prima di salutarvi per quest'estate volevamo ricordarvi gli appuntamenti di questa settimana e della prossima settimana. Allora, come abbiamo detto, domani mattina alle 9 presidio a Piazzale Clodio al Tribunale per gli arrestati e le arrestate del 15 ottobre in solidarietà, quindi mi raccomando. E il pomeriggio due assemblee in contemporanea, una alla Sapienza, tutte e due alle 17, sul 15 ottobre come tema la repressione, l'altra che è sempre sulla repressione però in un altro contesto più territoriale è quella a Valle Fiorita, via di Torrevecchia 156, sempre alle 17 per l'arresto di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata. Poi sabato scarichiamo i padroni, sabato 29 presso l'Orto Insorto in via degli Angeli 140 a Quadraro, dalle 18 in poi una assemblea a sostegno della cassa di resistenza per i lavoratori della logistica colpiti dalla repressione. E infine Poi penso che ci sarà la cena. C'è la cena assolutamente. Il fritto del fritto, una roba del genere. Roba buona, non vi preoccupate. E, mercoledì 3 luglio alle ore 18:30 da Tuba, libreria femminista in via del Pigneto, la coordinamenta femminista presenta Coscienza illusoria di sé di Elisabetta De Gil. Quindi mi raccomando, non perdetevi tutti questi appuntamenti. Circles and circles, circles again, the girls. Circles and circles, got to stop spinning. Circles and circles, circles again, the girls. Circles and circles again, well, circles and circles, circles again, the girls. Circles and circles, got to stop spinning. Circles and circles and circles again, the girls. Vi ricordiamo i nostri indirizzi per scriverci: coordinamenta@autistiche.org, per vedere i nostri materiali e le trasmissioni, risentire le trasmissioni, il nostro blog coordinamenta.noblogs.org, per finanziare la radio andate sul sito www.ondarossa.info e dove trovate tutte le modalità. E noi ci risentiamo più o meno alla metà di settembre, però ci saranno delle compagne che quest'estate a turno qualche mercoledì faranno delle trasmissioni musicali, perché trasmissioni musicali al femminile appena potranno, quindi magari non dico un mercoledì sì o un mercoledì no, ma insomma qualche mercoledì quest'estate. Grazie a tutte per l'ascolto, grazie a tutti. Ciao. Ciao. You're the box that's my guide, trapped in a box. Ooh, trapped in a box. What's the world of zebras?